Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Salva Danaio che oggi riprende in mano uno dei temi che stiamo trattando con maggiore frequenza in questi ultimi mesi. Si tratta dell'abbassamento a 1000 euro del limite per l'utilizzo dei contanti nelle transazioni, una novità che è entrata in vigore ormai da più di 2 mesi. Con la manovra Salva Italia di Monti e che tocca direttamente le abitudini degli italiani. Basti pensare, e ne abbiamo parlato anche giovedì scorso, della necessità per molti pensionati di adottare entro la fine del mese nuove modalità per incassare la pensione che fino ad ora hanno ricevuto in contanti. La norma in realtà sembrerebbe semplice e lineare, non è possibile effettuare pagamenti e transazioni di somme superiori a 1000 euro con le banconote. In questi mesi abbiamo parlato più volte di come cambino le cose anche per i libretti al portatore, per gli assegni, e ci si fermerebbe a poche novità piuttosto semplici da ricordare. Riflettendoci bene però, e soprattutto scontrandosi poi con le tante vicissitudini quotidiane, in questi mesi sono emersi molti casi limite in cui non appare per niente scontata la corretta applicazione della norma. Pensiamo per esempio ai pagamenti con acconto, alle vincite a giochi e lotterie, ai pagamenti rateizzati. E cosa succede per esempio per un prestito, per un regalo o banalmente come deve comportarsi un gruppo di amici per pagare una cena al ristorante se il conto supera i 1000 euro? È importante sapere tutto questo perché la responsabilità e quindi anche la sanzione, che può arrivare fino al 40% della somma interessata, sono in capo sia a chi ha dato il contante oltre soglia sia a chi lo ha ricevuto. Ai quesiti e a tanti altri quesiti concreti, casi concreti, ha risposto oggi il Sole 24 Ore con una guida pratica in edicola, e ad alcuni di questi risponderemo anche noi oggi a Salva Danaio, come sempre sollecitati dai vostri interventi e le vostre telefonate. Potete chiamarci all'800 24 00 24, aiutatemi perché oggi con la voce non ci arrivo come al solito, chiaramente i malanni di stagione colpiscono anche noi. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, e potete animare come sempre anche il dibattito che generalmente si scatena sui nostri argomenti su Facebook. Il nostro profilo è salvadanaio-radio24. Ciao a Giovanni Parente del Sole 24 Ore, bentornato. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ti affiderò oggi gran parte della trasmissione perché non so se ci arrivo fino alla fine, e risaluto e ringrazio per essere ritornata a dare il suo contributo a Salva Danaio anche a Benedetto Santa Croce, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, oltre che professore di diritto tributario comunitario presso l'Università Marconi di Roma. Buongiorno Santa Croce, bentornato. Buongiorno. Ci sente, tutti. Eccoci qua. Generalmente l'uomo degli assegni, Santa Croce, in passato ci ha aiutato tanto a dipanare tutti i quesiti su questo argomento. Invece oggi lo spendiamo al meglio su un argomento più complessivo. Allora, prima di entrare nel merito del tema, abbiamo anche una scheda riassuntiva, naturalmente, della situazione. Possiamo darvi conto anche della borsa, che oggi premia il piano di austerità molto rigido, molto rigoroso, approvato appunto dal Parlamento greco. Una situazione che, come sapete, lo stiamo raccontando da stamattina, sta provocando naturalmente molta tensione nel paese, ci sono vastissimi disordini sociali, ma invece la borsa cinicamente guarda i freddi numeri e a questo punto ha la possibilità che la Grecia ha di rimborsare il prestito obbligazionario in scadenza a fine marzo con questo nuovo pacchetto da 145 miliardi di euro che naturalmente poi l'Eurogruppo deve deliberare anche a metà settimana. In ogni caso più 0,5% a Parigi, Francoforte più 0,7%, Londra più 0,98%, Milano più 0,7%. Mi scuso con gli ascoltatori che si sono un po' innervositi perché prima ho utilizzato una terminologia ritenuta un po' complicata, perché ho detto che le banche sono state venerdì scorso downgradate da Standard & Poor's. Beh, insomma, allora traduciamo in italiano comprensibile per gli ascoltatori. Cosa è successo? Che ancora una volta un'agenzia di rating è intervenuta appunto per emettere una riduzione di giudizio sulle banche appunto italiane, questo a seguito della riduzione di giudizio che era stata già fatta a gennaio da Standard & Poor's sul debito sovrano del nostro paese, quindi diciamo tecnicamente era una misura attesa, forse per questo motivo che oggi le banche non si interessano più di tanto a questo giudizio. Comunque il miglior titolo in questo momento a Milano è Finmeccanica, che segna più 3 punti, A2A più 3, Banco Popolare Popolare più 2,27, Pirelli più 2,27, Parmalat più 2. Andavano un po' meglio tutte le banche in apertura di giornata, adesso invece sono ritornate un po' a scendere, e infatti vedo in negativo Unicredit meno 0,9, Intesa San Paolo meno 0,4, Banca Popolare di Milano meno 0,4, Monte dei Paschi meno 0,16, euro su dollaro a 1,32,61, lo spread sui 353 punti base. C'è stata un'asta dei titoli di Stato stamattina, un bot con scadenza ad un anno collocato interamente per l'importo previsto, 8,5 miliardi. Qualche ascoltatore ci chiede come mai, in un collegamento nel corso della mattinata ho detto che la domanda non è stata convincente. Il mercato ha chiesto 9,5 miliardi, qualcosa giù di lì, appunto, per quello che riguarda questo titolo. Abbiamo detto che non è stato soddisfacente perché in genere l'importo chiesto dal mercato è molto più alto, in genere doppia l'offerta. Questa mattina non è stato così, comunque ci accontentiamo quantomeno dei tassi in discesa, perché il tasso per questo titolo è sceso al 2,23%, a gennaio era del 2,73%, quindi mezzo punto secco, appunto, di ribasso. Direi che possiamo lasciare la borsa, andiamo al tema di stamattina, ritorniamo sullo stop al contante oltre 1.000 euro. Dal 6 dicembre scorso, con l'attuazione della manovra Salva Italia del governo Monti, sono vietate le transazioni in contanti al di sopra dei 1.000 euro. Una regola semplice che vuole ridurre i costi per la pubblica amministrazione e favorire la trasparenza e la tracciabilità, importanti per combattere l'evasione. Non è detto però che sia altrettanto semplice modificare le proprie abitudini nell'utilizzo del denaro contante. Un esempio significativo è quello che riguarda le pensioni. Quelle superiori ai 1.000 euro dovranno essere erogate con strumenti elettronici e molti pensionati hanno tempo solo fino alla fine di febbraio per scegliere una nuova modalità e imparare a utilizzarla. Sono molti poi i casi in cui l'interpretazione della regola non è immediata e potrebbe alimentare dubbi e confusione. È possibile, ad esempio, concludere un acquisto pagando parte della somma con carta di credito e l'altra parte, inferiore a 1.000 euro, in contanti? Il limite vale anche per un pagamento rateizzato se il totale supera la cifra massima consentita, ma le singole rate no? E poi ancora, come ci si comporta nel caso di regali e donazioni? O, banalmente, come deve comportarsi un gruppo di amici per pagare una cena al ristorante se il conto supera i 1.000 euro? Insomma, sono tante le situazioni che possono rivelarsi poco chiare, prendendo alla sprovvista il cittadino. Per questo è importante prepararsi con anticipo e risolvere tutti i dubbi, per evitare di comportarsi, anche se in buona fede, in modo scorretto. Il rischio, infatti, è quello di incorrere nelle sanzioni previste dal nuovo regolamento, che possono rivelarsi anche molto salate, arrivando fino al 40% della somma trasferita in modo scorretto. Allora, Giovanni Parente, prima di tutto vorrei farti raccontare come si articola la guida di questa mattina, che è un po' diversa rispetto al solito. Generalmente le guide del Sole mettono a disposizione un gruppo di consulenti, appunto, e di esperti per rispondere ai quesiti dei lettori. Oggi invece siete andati dritti al punto con 50 casi concreti in cui ci si può imbattere, sostanzialmente, quindi situazioni che possono capitare a ognuno di noi. Esatto, sono proprio 50 casi concreti, perché sono traggono spunto dalle domande che sono arrivate al forum di Telefisco. Quindi sono 50 quesiti che sono stati riproposti, rivisti in maniera organica dai nostri autori, e che prospettano un po' le situazioni più dubbie che il nuovo limite al contante ha in qualche modo creato a partire dal 6 dicembre scorso. Quindi abbiamo esaminate e le abbiamo in qualche modo gli abbiamo dato un'organicità, presentando ad esempio per acquisti le fatture, la pluralità di committenti, gli stipendi, gli acconti, che è uno dei temi più caldi, insomma, che in questo momento vengono sentiti dai nostri lettori. Situazioni dubbie che dovranno essere risolte in qualche maniera con un altro intervento normativo, perché mi veniva in mente quando ci è successo giovedì scorso, quando abbiamo affrontato la questione del pagamento delle pensioni che sono appunto al di sopra di questa cifra. Ci sono anche quelle che sono inferiori a questa cifra, che possono essere continuate a pagare in contanti, ma il problema si crea con la tredicesima di dicembre. Questo è un caso, per esempio, che ancora il governo deve risolvere. Che cosa ancora c'è in ballo? Diciamo che tutto quello che è legato alle prossime scadenze in qualche modo ha bisogno di un quadro normativo più chiaro. Ad esempio, c'è il famoso conto base, come scriviamo anche noi oggi, che sarebbe il conto che verrebbe offerto a pensionati e chi, insomma, con redditi più bassi. che dovrà essere definito, insomma, entro il 28 marzo. C'è un provvedimento che deve arrivare, è un provvedimento che deve essere messo a più voci, perché sono competenti sia il Ministero, è competente il Ministero dell'Economia, ma dovrà sentire l'ABI e i rappresentanti degli operatori finanziari, e al momento è ancora in via di definizione. È un provvedimento molto importante anche perché dovrebbe definire quella che è la commissione che viene pagata dai commercianti per i pagamenti con carte di credito e bancomat. Ricordiamo che uno dei refrain dei mesi passati, le settimane passate, era sì, abbassiamo il limite al contante, però noi commercianti abbiamo delle commissioni molto alte, soprattutto con certi circuiti. Esatto, e questo dovrebbe definire delle commissioni standard. Benissimo, allora quindi abbiamo già indicato alcune delle questioni che devono essere chiarite. Volevo salutare Benedetto Santa Croce per sentire un po' dal punto di vista anche professionale quali ritiene che siano i punti di intervento più urgenti che in qualche maniera devono essere fatti anche dal suo punto di vista per poter risolvere definitivamente la questione. E intanto saluto anche Angela da Brescia e Nicola da Venezia, che sono due ascoltatori che sentiremo tra pochissimo. Santa Croce. Ma il problema di fondo, al di là del piano normativo, io penso che non sia, cioè il Ministero dell'Economia dovrebbe riflettere sul piano interpretativo per andare ad interpretare e poi applicare correttamente questa normativa, perché prima il limite di 12.500 euro, poi 5.000, insomma questa rapida diminuzione porta a far sì che prima che erano problemi che riguardavano probabilmente un numero di soggetti abbastanza limitato, adesso portandolo a 1000 euro riguarda veramente tutta la popolazione, per cui secondo me proprio sul piano della sistematicità degli interventi che sono stati fatti dalla Commissione Antiriciclaggio piuttosto che dal Consiglio di Stato, piuttosto dal Ministero dell'Economia, forse bisognerebbe rimettere insieme tutti questi elementi e arrivare ad affrontare i casi come li abbiamo affrontati noi, per cercare di risolverli anche in modo probabilmente anche più generoso di quanto abbiamo fatto noi, ma per consentire veramente un utilizzo più facile poi di quelle situazioni in cui evidentemente il superamento della soglia è frutto di antiriciclaggio, è frutto di evasione. Quindi sostanzialmente il suo suggerimento è, una volta per tutte, rendere la normativa omogenea e avere un quadro unico di riferimento. Io farei proprio esattamente quello che ha fatto il Sole questa mattina, 50 casi concreti, allora io concretizzo ulteriormente la questione andando a sentire quali sono ancora i dubbi particolarmente diffusi fra gli ascoltatori, e animiamo immediatamente allora la nostra trasmissione con i contributi dall'esterno. E sono subito curiosa di sentire Nicola da Venezia. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Niente, io volevo porvi alla vostra attenzione il problema che fino adesso non si è mai parlato dei casinò sul territorio italiano. Siamo quattro casinò, io sono un dipendente del casinò di Venezia e abbiamo molti problemi per questa norma che limita il contante a 1000 euro, sia per una questione proprio di pagamento di vincita, perché un cliente arriva, ritira dei soldi o anche ritira solamente delle fiche, fa delle giocate diverse in tanti tavoli e poi magari invece vince tanti soldi. Il cliente vorrebbe essere pagato anche con i soldi che mi ha portato, magari ha portato anche, è venuto in due o tre volte con un po' di soldi che erano sotto le 1000 euro, però li vince e quindi lui li vorrebbe indietro. Logicamente è un problema per tutti, contando che all'interno dei casinò c'è un grosso servizio ispettivo che controlla sull'antiriciclaggio, abbiamo norme ferree di antiriciclaggio e questo ha creato un abbassamento della clientela. E quindi Nicola, fino a questo momento, in ogni caso, per quei clienti che non se ne sono andati, come vi siete comportati, come avete gestito la questione? Certo, le vincite sopra i 1000 euro vengono rilasciate in assegno. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, oggi riparliamo di nuovo dello stop alle transazioni commerciali che hanno un importo superiore ai 1000 euro, rispondiamo ai dubbi più frequenti, ai casi più frequenti che possono capitare ai nostri ascoltatori, prendendo a spunto la guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, si intitola proprio Stop al contante, acquisti, assegni e stipendi, 50 casi per non sbagliare. Ricordate che la soglia di 1000 euro dal 7 marzo si applica anche all'erogazione delle pensioni e alle buste paga, poi affronteremo anche il tema degli stipendi. Siamo però rimasti alla questione dei gestori di casinò. Abbiamo aperto proprio in bellezza la nostra trasmissione. Giovanni Parente, allora spieghiamo un po' come ci si può comportare all'interno di questi ambiti, perché come ci segnalava l'ascoltatore di Venezia che lavora in un casinò ha molti problemi per poter erogare le vincite degli avventori appunto di questa struttura. La norma è chiara su come in questi contesti ci si debba comportare? La norma non prevede nessuna deroga, quindi non prevedendo nessuna deroga è comunque se si supera il limite dei 1000 euro è necessario un pagamento in maniera tracciata. Quindi c'era stata una sorta di richiesta che veniva dal mondo del gioco durante l'approvazione del decreto Salva Italia, che si prevedesse qualche deroga o qualche norma specifica al riguardo. Invece anche AMS, diciamo che per la giocata in senso lato, quindi non solo il mondo dei casinò, ha previsto che quando siano sopra i 1000 euro si utilizzino gli strumenti tracciabili per il pagamento. Quindi il caso di Nicola che ci segnalava che nell'ambito di quella struttura le vincite vengono pagate appunto con l'assegno è regolare. Il problema è che molti, come dire, vincitori non accettano. Esatto, probabilmente ecco. Il problema è quello. Benedetto Santa Croce vuole dirci la sua sul caso dell'ascoltatore segnalato, sì. Ma no, una cosa interessante è che l'unica deroga che esiste, che noi la ripetiamo ormai da un po' di tempo, è ovviamente il passaggio tramite un intermediario abilitato, cioè tramite una banca. Quindi se noi evidentemente vogliamo ritirare soldi o versare soldi contanti alla banca, lì il limite non esiste. Perché faccio questo parallelo? Solo per un motivo, perché il casinò fondamentalmente è un soggetto che è un soggetto attivo nella lotta al riciclaggio, è uno di quei soggetti che deve segnalare proprio l'operazione antiriciclaggio, però non è abilitato come intermediario a poter intervenire come soggetto che può lavorare il contante al di sopra di quel limite. Quindi sostanzialmente il tema potrebbe, riportandomi anche alla mia affermazione iniziale, sarebbe quella di revisitare un po' questa normativa, ma certamente il problema che è stato messo in evidenza è che da una parte loro sono soggetti che devono monitorare le operazioni per riciclaggio, dall'altro non possono emettere, non possono pagare le vincite che sono al di sopra della soglia. Beh, è chiaro che sono due situazioni da tenere ben distinte. E quindi mi riallino al fatto che non esistono deroghe, e quindi purtroppo il problema esiste. Tra l'altro, se non ricordo male, la questione è già abbastanza dettagliatamente disciplinata, per esempio per quello che riguarda le vincite al lotto, super enalotto. In ogni caso già importi di un certo tipo era già stabilito, Santa Croce se non sbaglio, che venissero pagate secondo un'apertura di un conto corrente presso un gruppo di banche appunto convenzionate proprio per questi scopi, e quindi diciamo si può già ritirare in contanti delle vincite in quell'ambito, ma oltre certe soglie diciamo già c'è l'obbligo dell'accredito in un conto, giusto? Sì, c'era già il blocco, per cui nel momento in cui tu ti fai una lotteria e vinci, alla fine fino al, diciamo, di solito era il limite dei 12.500, poi steso successivamente a 15.000, ma sostanzialmente il tema era sempre che c'era questo blocco, per cui al di sopra di un certo tot comunque dovevi accreditarlo. È chiaro che però invece possibilità di prelevare o di versare somme attraverso una banca, questo è un elemento che poi sul piano pratico molto spesso può essere molto utile. Faccio un esempio, voglio dire, c'è stato rappresentato per esempio che le compagnie aeree si trovano molto spesso ad avere un acquirente che va in biglietteria e si presenta con la mazzetta di soldi per comprare il volo. Ecco, in quel caso l'unica soluzione è accompagnare questo soggetto o comunque organizzarsi con la banca che c'è in aeroporto per poter far versare questi soldi e poi evidentemente poter far pagare il biglietto, perché se no c'è il blocco e quindi non si dovrebbe perdere il cliente, che è una cosa che evidentemente non è certo, è evidente. Allora, voi non immaginate quante telefonate ci stanno arrivando. Andiamo ad Angela da Brescia subito. Angela, buongiorno. Buongiorno. Io faccio una premessa, io sono cieca e non posso tenermi informata attraverso giornali e guide. E quindi sente tanto la radio, Angela, giusto? Siete l'unica mia fonte di informazione. Tutta. Io ho tre radio che vanno tutto il giorno in tutto l'appartamento. Ottimo, grazie. Su Radio 24. Dunque, la mia badante che vive con me da 10 anni se ne torna a casa. Non vuole a nessuna condizione, vuole a tutte le condizioni la liquidazione in contanti. Lei mi dica come faccio. Io all'ACLI dovrò pur dichiarare che le saldo la liquidazione. Certamente. Vabbè. Cosa devo fare? Allora, Angela, vediamo un po'. Benedetto Santa Croce, qua abbiamo una trattativa un po' complessa, cioè diciamo semplice teoricamente, ma insomma, quando la controparte non le vuol sentire? Ma non le vuol sentire, è evidente che se lei le vuole in contanti, io ritorno al mio esempio di prima, cioè voglio dire, io darò ordine alla mia banca di erogare in contanti a questa persona a scopo di liquidazione, quindi dando ovviamente la causale specifica a scopo di liquidazione, andrò materialmente e quindi la persona si presenterà e potrà ricevere questi soldi in contanti. Quindi il caso certamente... in cui per esempio Angela ritiri in contanti dalla sua banca l'importo che poi deve trasferire alla badante. Oppure, no, ecco, non è questo, perché questo è un problema, nel senso che lei può ritirare sicuramente anche la somma integrale e poi darla alla badante, ma nel momento in cui la dà ed è superiore a 1000 euro, evidentemente ci troviamo nella situazione in cui abbiamo superato il limite. No, l'esempio che potrebbe essere è che lei con la badante vadano alla banca, in quel momento Angela farà la richiesta alla banca di liquidare a questa persona in contanti la somma, e quindi sarà la banca che erogherà in contanti alla badante la somma richiesta. In questa maniera evidentemente viene garantita il controllo da parte della banca e la badante potrà disporre nella sua tasca della somma che supera sicuramente i 1000 euro e che costituiscono la base della liquidazione. E Angela, da parte sua, non avrà problemi con la normativa sul riciclaggio. Giovanni, volevi aggiungere qualcosa? No, ad esempio, Deborah, magari un consiglio un po' più basico potrebbe essere quello di fare un versamento anche su una carta prepagata. Questo potrebbe in qualche modo anche servire a semplificare il passaggio. Ricordiamo però alla signora Angela che insomma anche purtroppo la normativa prevede anche la sanzionabilità sia di chi fa il pagamento oltre soglia sia di chi lo riceve. Infatti, allora chi andiamo? Allora abbiamo spalancato la porta alla questione dell'erogazione degli stipendi, qui avevamo nella fattispecie una liquidazione, ma è un tema molto interessante. Peraltro, leggendo proprio la guida di questa mattina, io ho scoperto, qualche volta mi rendo conto di essere davvero Alice nel paese delle meraviglie, che ci sono molti settori nei quali si usa per esempio il pagamento settimanale, quindicinale degli stipendi, o comunque ci sono degli anticipi, sia perché molti magari dipendenti ne hanno bisogno, ma ci sono anche delle prassi molto diffuse in questo senso in molti settori. Allora vorrei sentire cosa capita nell'agricoltura. Gabriele dalla provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno. Gabriele, buongiorno a lei. Buongiorno, allora sottopongo il nostro caso, molto semplice, sono amministratore di un'azienda agricola, molto spesso facciamo uso di bracciante nel periodo marzo, aprile, maggio, diciamo molto spesso sono extracomunitari, certo, o comunque sono per cui non hanno conti correnti, certo, o altre cose, esatto, stagionali. E invece normalmente noi aspettiamo fine mese, poi a fine mese diamo le giornate al commercialista che nel giro del 7, 8, 10 del mese successivo ci dà la busta paga. In realtà noi comunque paghiamo, perché questa gente che ha sempre bisogno, adesso c'erano 200 euro per l'affitto, poi c'erano 300 euro per un motivo eccetera, noi paghiamo costantemente degli acconti e poi alla fine, all'inizio del mese successivo si fa il saldo in base al valore della busta paga. Quindi gli acconti possono essere 200, 300, certo, 400, certo, in funzione di quello che ci chiedono e di cui hanno bisogno. Per cui e diciamo, banca, e fin lì quelle operazioni sono fattibili, però lei dice insomma accumulandolo fanno sempre riferimento ad uno stipendio. Poi esatto, mi comparirà un valore, che ne so, di 1150 euro. Io ho già dato 400 euro oppure in due volte 700 euro al diciamo, dipendente stagionale. Io mi trovo a questo punto fuori norma o sbaglio? Allora Gabriele, sentiamo cosa dicono i nostri esperti, rimanga pure lì, se io ce la faccio ad andare avanti, Benedetto Santa Croce, le affido i prossimi due minuti della mia sopravvivenza. Prego. Allora, sul problema stipendi devo anche testimoniare il fatto che il Ministero dell'Economia sta facendo una riflessione un po' più ampia, proprio perché evidentemente nella maggior parte dei casi non è un meccanismo di antiriciclaggio, ma è un meccanismo che può essere legato alla tipologia di contratti. però è importante distinguere la tipologia del contratto rispetto agli acconti che vengono fatti su un contratto mensile, cioè se io ho un pagamento mensile, il cui pagamento mensile è superiore ai 1000 euro, è evidente che poi anche gli acconti che vado a versare a questo soggetto, perché mi vengono richiesti dal soggetto, perché gliele anticipo, evidentemente poi vanno soggette alla regola, e quindi alla fine questi acconti costituiscono una irregolarità e quindi evidentemente non sono da fare. Ecco, cosa diversa invece sono quelle situazioni in cui la contrattualistica preveda già una ripartizione. Immaginiamo sostanzialmente quelli che hanno la liquidazione quindicinali, oppure i lavoratori a cottimo, dove evidentemente c'è un pagamento che avviene genericamente, non dico al giorno ma settimanalmente. È evidente che quelli hanno una forma di contratto che liquida la loro posizione in 4 settimane. Qual è la fattispecie secondo lei del caso di Gabriele Santa Croce? Il caso di Gabriele secondo me è irregolare, nel senso che sono acconti che superano il limite. Ecco, su questo l'unica cosa su cui si può ragionare e su cui abbiamo trovato anche una posizione da parte del Ministero è quello di distinguere e quindi fare dei versamenti fondamentalmente in contatti sotto la soglia e poi per l'integrazione della soglia farlo con un mezzo tracciabile. Cioè, faccio un esempio, ha parlato di acconti 200-300 euro che gli vengono dati durante il mese, poi arriva la busta paga di 1150. Sì. Allora in quel caso la differenza tra gli acconti e il totale, e quindi sostanzialmente poi i 300-200-300 euro che può dare in altra forma, gliela dà in mezzo tracciabile, quindi avrà dato degli acconti in contanti e poi il saldo in contanti. A me sembra abbastanza semplice, una situazione che chiaramente una soluzione che tutelerebbe completamente Gabriele. L'importante è che poi magari i lavoratori che prestano l'opera per la sua azienda capiscano e riescano, permettono appunto a Gabriele di comportarsi in questo modo. Allora, caro Giovanni Parente, tu non lo sai, ma ti ho trovato il caso 51, una situazione che non avete esaminato sul Sole 24 Ore di stamattina. Ce la racconta Giancarlo da Roma. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io per conto di una parrocchia da diversi anni conto i soldi, le offerte. Le parrocchie, le entrate sono solo offerte. Il 90% sono monete e il 10% sono cartacei. Che lavoro certosino, Giancarlo, chissà quanto si diverte adesso, no, con i centesimi. Ci sono delle macchine metalliche per contare i soldi. Visto come sono arretrata. Diciamo che una volta al mese con 3-4 ore si riescono a contare le monete, ma le monete possono essere anche 7-8 mila. Allora, volevo sapere, quando noi andiamo in banca e versiamo tutto in contanti, solo esclusivamente in contanti, in parrocchia non esiste il bancomat, e in 10 anni solo una volta abbiamo ricevuto un'offerta e un assegno, cambia qualche cosa? Allora Giancarlo, tanto per cominciare Giovanni, lì sono tutte sicuramente offerte individuali, no? Perché non è che arriva uno, questo, però lui se li porta in banca e quello deposita, è a posto, non deve preoccuparsi di niente il parroco di questa parrocchia per la quale Giancarlo cura gli affari finanziari. Vale la regola che citava Santa Croce prima: quando si passa per un intermediario finanziario abilitato non ci sono problemi, quindi se lei preleva o deposita come in questo caso in banca non ci sono limiti che tengano. Allora, se poi con tutti questi soldi invece Giancarlo andasse in un negozio a comprare la lavatrice nuova per la parrocchia, ammettendo che serva appunto al parroco perché si è rotta, e li fa transazione commerciale, però gli dice di tutti questi soldi li ho presi dalle offerte, e l'acquirente gli dice vabbè allora me la paghi in contanti, no, lì non si può fare, attenzione, fatto un caso ovviamente estremo. Siamo sempre la lavatrice del parroco è fantastica, però. Sempre la soglia, comunque la lavatrice del parroco è straordinaria. Va bene, comunque Giancarlo stia tranquillo, continua a fare appunto il suo lavoro di custode delle offerte della parrocchia per la quale presta quest'opera. Luisa da Brescia, a scuola che cosa succede? Sì, buongiorno. Senta, noi siamo un gruppo di genitori, rappresentanti di classe, che quindi ogni anno veniamo rieletti e quindi possiamo cambiare. Abbiamo raccolto con una festa di fine anno una certa somma dalle offerte dei genitori, che però non sappiamo dove depositare, perché questa cifra è all'incirca di 3-4 mila euro e per depositarla dovremmo intestarla ad una persona fisica, ma come lei ben capisce è difficile da fare. Che uno si presti, certo. Insomma. Ecco, sì, per cui se noi adesso con questi soldi dovessimo fare degli acquisti che superano i 1000 euro non avendoli depositati in banca, come possiamo fare? Luisa, allora come sentiamo... Come possiamo depositarli? Certo, che cosa dovete comprare intanto a breve? Vi serve qualcosa per la scuola? Sono dei progetti che abbiamo scelto di fare per la scuola, laboratori, laboratori per i bambini, quindi vengono fatte da aziende... da cooperative. Benissimo Luisa, grazie soprattutto per il suo impegno con la scuola, perché anche per i genitori qualche volta queste piccole rogne non sono mica facili da essere prese in carico. Andiamo a Benedetto Santa Croce, che avendo un sacco di figli peraltro queste dinamiche le conoscerà anche molto bene. Santa Croce, no, allora, cosa suggeriamo di fare a questo gruppo di genitori? Allora, sicuramente il problema di fondo è sempre l'uscita, non è tanto l'entrata, nel senso che il deposito di questi soldi nel momento in cui vengono fatte evidentemente c'è un problema di tracciabilità, nel senso che devono essere fatte poi chiaramente che questi soldi devono essere amministrati correttamente da queste persone, però è evidente che il problema è l'uscita, perché quando nel momento in cui io vado ad assumere una spesa che è superiore ai 1000 euro, evidentemente ho questo problema. Allora come posso fare? Beh, ritorniamo al discorso originario, dovrei anche in questo caso fare un versamento alla banca, ordinando di versare questi soldi poi direttamente alla cooperativa, che poi ci farà un documento e quindi una fattura corrispondente. A quel punto posso sicuramente superare i limiti. Ecco, c'era l'ulteriore problema che veniva rappresentato sul fatto che poi alla fine però abbiamo una persona fisica che si deve assumere l'onere anche in questo caso di essere identificata da parte del sistema bancario per il versamento. Però è chiaro che se il soggetto è il rappresentante del consiglio di classe ed è deputato a gestire queste somme, e queste somme le gestisce anche con una mini contabilità, sarà sempre in grado di dimostrare che quei soldi che sono usciti non sono soldi suoi e quindi illecitamente guadagnati, voglio dire, ma sicuramente sono la colletta che è stata fatta in classe. Per cui da questo punto di vista ritengo che la formula sia quella: non dare sicuramente cash in mano al prestatore di servizi la somma superiore a 1000 euro, perché quella poi per giunta viene facilmente riscontrata, perché lui gli emetterà un documento, una fattura dove c'è scritto chiaramente che è stato pagato in contanti, e quindi potrà essere svelato sempre poi il fatto che c'è stato questo trasferimento illecito. Allora, io tra l'altro ho una marea di telefonate, non vi dico quanti messaggi, non riusciremo mai, stiamo già quasi chiudendo la nostra trasmissione, ad esaminarli. Vi suggerisco appunto di andare a controllare la guida di oggi del Sole, perché i casi sono veramente molto dettagliati e quindi forse potrete trovare anche la risposta alla vostra domanda. Stavo guardando un ascoltatore che ci ha scritto: Maurizio, ritornando alle vincite, ho vinto sabato 2000 euro al Superenalotto, come mi pagheranno, Santa Croce? Mi pagheranno sicuramente chiedendogli mezzo di elettronico di pagamento, certo. Oppure le coordinate IBAN probabilmente. Sì, probabilmente gli chiedono le coordinate per il pagamento. Rapidamente sì, che andiamo a sentire adesso prima di salutarci. Gennaro dalla provincia di Monza e Brianza, rapidissimo Gennaro, telegrafico, sì, grazie. Pronto? Sì. Senta, io nel mese di marzo dovrei andare per motivi di famiglia all'estero, ho intenzione di portare con me tra i 2.000 e i 3.000 euro per scaramanzia. Ho pensato di prelevare 500 euro ogni volta col bancomat e tenerli a casa, 500 euro perché è il massimale che io può prelevare, ho deciso di prelevare per evitare problemi, no? Sì. Posso fare 6 prelievi e portarli con me, oppure devo andare in banca a chiedere 3.000 euro e li porto con me? Gennaro, la ringrazio. Benedetto Santa Croce, allora lui non fa una transazione commerciale, solo un po' di contante che gli serve naturalmente, però è tutto tracciato, fa regolarmente dei prelievi bancomat, a meno che qualcuno non lo chiami a rispondere. Per essere rapidi, non ha nessun problema, non ha nessun problema, e ricordo sempre, io ho problemi ad andare all'estero solo quando supero il limite dei 10.000 euro, perché in quel caso in dogana devo dichiararli, lo dico perché molto spesso non lo facciamo e quindi può scappare. Perché tra l'altro Gennaro aveva fatto anche questa domanda alle nostre centraliste, che poi non ha completato appunto adesso in diretta, ma voleva proprio sapere che cosa mi potrebbe succedere in aeroporto. Beh, a me il portafoglio non me l'hanno mai controllato, almeno che non averne faccia particolarmente sospetta che ti perquisiscono. Quindi Giovanni Parente, stai attento la prossima volta che fai un viaggio. Non mancherò di essere attento. grazie ad entrambi per essere stati con noi, grazie a tutti. Salvadanaio torna domani, buona giornata.